Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questo venerdì 18 ottobre, una tregua fragilissima, forse neanche una tregua nell'invasione turca nella Siria curda, ancora le immancabili polemiche all'interno della maggioranza dell'opposizione, in particolare alla vigilia della Leopolda che cerca una vetrinetta per far parlare di sé, tutti argomenti vecchi e nuovi della rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno, benvenuti nel web notiziario con le notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Turchia accetta una tregua di 5 giorni. In Siria, Gaza, quasi terminate le scorte di medicinali essenziali. Nigeria, liberati dalla polizia altri 500 uomini e ragazzi da una terza sedicente scuola islamica, legati e picchiati. Rapporto Frontex, in Europa arrivano più afghani che siriani. Venezuela ottiene contestato seggio al Consiglio dei diritti umani dell'ONU. E cominciamo con le autorità irachene, che sono nel mirino per come hanno reagito lentamente in risposta all'alto bilancio delle vittime tra i manifestanti che protestavano contro il governo. La magistratura ha emesso mandati di arresto per almeno 6 agenti accusati di aver usato forze eccessive e di aver ucciso dei manifestanti. 3 ufficiali invece sono stati deferiti ad un'indagine sulle violazioni contro i manifestanti a Hilla, a sud di Baghdad, mentre mandato di arresto per un altro ufficiale a Wasit e un altro a Maesan e 2 altri a Dikar. Ci sono stati 110 morti e 6.000 feriti, ma restiamo ancora in Iraq perché un giornalista, un presentatore curdo della televisione NRT, insieme a sua moglie Lana e a suo figlio, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da uomini armati nella città di Sulaymaniyah. Amanj Baban presentava un programma popolare che si chiama Senza Frontiere. Anche la moglie era stata giornalista. La NRT è un canale indipendente nella regione semi-autonoma dell'Iraq, del Kurdistan. Trasmette sia in arabo che in curdo. Spostiamoci nel conflitto turco-curdo-siriano. Il vicepresidente americano Mike Pence, in visita ad Ankara, ha annunciato che gli Stati Uniti e la Turchia hanno concordato un cessate al fuoco in Siria per 120 ore. Questi 5 giorni sono il risultato di 5 ore di negoziati tra Pence, segretario di Stato, e il presidente Erdogan. Non è chiaro cosa abbiano ricevuto i turchi in cambio. Sicuramente i turchi non vogliono gli americani nella regione del nord della Siria. Pence ha detto che la Turchia dovrà concludere la sua operazione militare dopo che i curdi dello YPG si saranno ritirati in zone sicure. Solo 2 giorni fa il presidente turco Erdogan aveva detto che non si sarebbero fermati fino alla fine della loro missione. Sul fronte i curdi hanno detto che sono stati compiuti raid dai turchi con armi non convenzionali. Ankara smentisce mentre continua l'assedio a Ras Alain. Le forze curde, intanto, tramite il comandante Mazlum Kobani, hanno annunciato il congelamento delle loro operazioni di contrasto all'ISIS. E ancora, all'interno della NATO sono accese le discussioni sul comportamento della Turchia, ma sembra improbabile una sua espulsione. In Turchia 24 persone sono state arrestate per aver criticato sui social media l'operazione militare in Siria. Libano sotto controllo, gli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato il paese. La polizia ha dovuto usare cannoni d'acqua, di solito usati contro i manifestanti nelle proteste, perché i mezzi dei vigili del fuoco non ricevevano manutenzione da anni. Nella striscia di Gaza stanno finendo i medicinali essenziali, pubblicata una ricerca dell'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor e fatta lo scorso agosto. La maggior parte dei genitori dei bambini autistici di Gaza non hanno i soldi per i trattamenti necessari e le autorità non forniscono alcun sostegno finanziario. Un altro rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che dei 516 prodotti nell'elenco dei farmaci essenziali di Gaza, quasi la metà a meno di un mese di scorte. nel 2018. L'esaurimento delle scorte era peggiorato del 15% rispetto all'anno precedente. I dati del 2019 dipingono un'immagine altrettanto inquietante. Nel mese di agosto le scorte di 225 medicine essenziali custodite nel deposito centrale del Ministero della Salute di Gaza erano esaurite di almeno il 90%. I militari israeliani hanno arrestato il predicatore della moschea di Al-Aqsa, Sheikh Ismail Nawahda. Siamo ora a Gerusalemme, dopo che aveva detto ai fedeli di essere uniti e di proteggere il luogo sacro dall'intrusione dei coloni israeliani, preso al posto di blocco di Calandia poco prima di Ramallah. Mentre spostandoci in Cisgiordania, Israele ha riaperto un sito turistico vicino a Gerusalemme, ma ai palestinesi del paese dove si trovano le sorgenti naturali è stato impedito l'accesso. Aperte le sorgenti di Ein Hania durante le festività ebraiche, un posto bellissimo circondato da villaggi palestinesi, venne chiuso non senza polemiche per lavori di ristrutturazione 2 anni fa. La breve riapertura di questa settimana fa pensare che all'apertura ufficiale i palestinesi continueranno a restare fuori. Un turista europeo è stato arrestato in Egitto per aver scalato la piramide di Cheope, quella più grande delle tre che si trovano a Giza, alla periferia del Cairo. Il Ministero dell'Antichità non ha precisato la nazionalità, la polizia lo ha fatto scendere e lo ha preso in consegna. Qualche mese fa un altro egiziano per lo stesso motivo era stato arrestato, mentre l'anno scorso una coppia di danesi giunti al vertice della piramide, 149 metri e 4500 anni, sono stati presi nudi mentre si facevano un video. Il re del Marocco ha graziato Hajar Raisouni, la giornalista condannata ad un anno di prigione il mese scorso per aver fatto sesso extraconiugale e un aborto, scagionati anche il fidanzato, il medico e 2 colleghi. Raisouni ha sempre negato le accuse, dicendo di essere stata presa di mira per il suo lavoro come giornalista e perché è nipote di un eminente islamista. Nigeria è la terza operazione della polizia nel nord. Questa volta sono stati liberati 500 uomini tra ragazzi e bambini da una sedicente scuola coranica. Legati erano stati molestati e picchiati. In queste 3 operazioni sono almeno 1000 ragazzi liberati. Il presidente Buhari è sotto pressione perché agisca velocemente per liberare migliaia di altri minori che potenzialmente si trovano in scuole simili in Nigeria. Anche questa casina. Il proprietario è stato arrestato e 5 altri del suo staff. Secondo la polizia non sono stati maltrattati. Tutti, circa 300, stavano in un edificio ed erano in buone condizioni, ma 200 erano in un altro e venivano tenuti prigionieri e regolarmente abusati. Stai ascoltando Radio Bullets. Francia e Germania hanno firmato un accordo vincolante sulle regole di controllo delle esportazioni di armi per programmi sviluppati congiuntamente come carro armati e aerei da guerra del futuro, hanno detto ieri i 2 paesi in una dichiarazione rilasciata dopo una riunione congiunta a Tolosa. Secondo l'accordo siglato, la Germania non bloccherà le esportazioni francesi verso i paesi terzi a condizione che siano realizzate attrezzature con meno del 20% di componenti tedeschi. Regno Unito, si è conclusa ieri in prima serata la discussione dei 27 leader dell'Unione Europea sulla Brexit. Endorsement dei capi di Stato all'accordo raggiunto, hanno approvato la dichiarazione politica sulle relazioni future. Domani il Regno Unito voterà sull'accordo. Spagna, sono 97 le persone arrestate dall'inizio delle proteste in Catalogna contro la condanna di 12 leader separatisti. 194 agenti del Mossos d'Esquadra e della Polizia Nazionale sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti. Haiti, dopo 5 settimane dall'esplosione di violente proteste sull'isola, il presidente Moisè ha rotto il silenzio dicendo che sarebbe responsabile per lui dimettersi mentre ci sono disordini. Le proteste hanno paralizzato l'economia e costretto le scuole a chiudere. Durante una conferenza stampa a sorpresa, il presidente ha dichiarato di essere stato eletto costituzionalmente e che avrebbe rinunciato al potere solo attraverso un processo politico legale come le elezioni. In un discorso rivolto ai manifestanti arrabbiati per la corruzione, l'inflazione che ha raggiunto il 20%, il calo delle forniture di beni di base, compresa la benzina. Moisè ha ribadito di essere aperto a qualsiasi negoziato che porti a una soluzione pacifica della crisi. Il Venezuela ha ottenuto un contestato seggio al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonostante 50 organizzazioni e molti paesi fossero contrari. Due seggi sono andati dall'America Latina, Brasile con 153 voti, il Venezuela con 105. L'organismo mondiale di 193 membri ha eletto 14 membri del Consiglio per i diritti umani di 47 membri per un mandato di 3 anni a partire dal 1 gennaio. Secondo le regole, i seggi sono assegnati alle regioni per garantire la rappresentanza geografica. L'Africa aveva 4 paesi in votazione, Benin, Libia, Mauritania e Sudan, per 4 seggi. Ma quando il presidente dell'Assemblea Generale, Tijani Muhammad Bande, ha annunciato i risultati, i vincitori sono stati Namibia, Libia, Mauritania e Sudan, con il Benin che ha ottenuto un solo voto. Il Consiglio dei diritti umani, con sede a Ginevra, può mettere in luce gli abusi e monitora determinati paesi e problemi, revisiona periodicamente anche i diritti umani di ogni paese membro delle Nazioni Unite. Afghanistan. Secondo gli ultimi dati dell'agenzia europea Frontex, sono più gli afghani che migrano in Europa provenienti dall'Iran che i siriani, mentre l'Europa teme una nuova ondata di richiedenti asilo, conseguenza dell'attacco della Siria di questa settimana nella regione nord-orientale del paese. I funzionari dell'Unione Europea hanno avvertito che il crescente numero di afghani pone un problema più immediato. Dall'inizio del 2019 quasi 17.000 afghani hanno attraversato il mare Egeo per raggiungere le coste dell'Unione Europea, riferisce Frontex. Circa la metà dei richiedenti asilo afghani viveva in Iran prima di tentare di attraversare la Turchia verso l'Europa, ha detto a Reuters un alto funzionario dell'Unione Europea, aggiungendo che in molti casi i migranti afghani che viaggiano in Europa sono nati in Iran, stanno andando via perché la politica americana ha notevolmente deteriorato la situazione economica in Iran, ha detto il funzionario. L'economia iraniana è particolarmente in crisi da quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha reimposto le sanzioni l'anno scorso per fare pressione su Teheran affinché rinegoziasse l'accordo nucleare da cui gli Stati Uniti erano usciti. Di fronte alle difficoltà in Iran, i lavoratori afghani stanno andando alla ricerca di modi migliori per sostenere le famiglie rimaste in Afghanistan. Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso 3 separatisti dopo che alcuni militanti hanno ucciso 2 persone mercoledì scorso, in quello che è stato uno dei giorni più sanguinosi in Kashmir da quando New Delhi ha revocato l'autonomia della regione contesa più di 2 mesi fa. Queste uccisioni sono state le prime da quando i servizi di telefonia mobile sono stati ripristinati come parte di un graduale allentamento delle misure adottate per frenare i disordini violenti nello stato di Jammu e Kashmir, vendicati da India e Pakistan e governati in parte da entrambi. Il governo aveva interrotto le linee telefoniche e internet prima di revocare i diritti speciali di Jammu e Kashmir il 5 agosto, annullando le disposizioni costituzionali di lunga data per la regione a maggioranza musulmana. Un blocco della sicurezza ancora ampiamente in atto e le connessioni internet a banda larga e mobili rimangono non disponibili per la maggior parte del Kashmir. Filippine, terremoto 6.3 e almeno un morto. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Se volete sostenerci potete andare su www.radiobullets.com, altrimenti appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. the tears for to help you out. Well, with friends like that, baby, good friends you had to do without. And now they've taken the chains and the gears from off your merry-go-round. Oh, and it never rains around here. The faster they are, babe, the faster they get out of town. They'll even make up stains and the tears will clown. Yes, and it never rains around here. It just come pouring down. Oh, you were just a roller coaster memory. I don't know why I was even passing through. Saw you making a date with destiny. Then he came around here asking after you. In the shadow of the wheel of fortune, you're busy trying to clear your name. You say I may be guilty, yeah, that may be true, but I'd be lying if I said I was to blame. Could I be major contenders? We never got no money, no breaks. You got a list of all the major offenders. You got a list of all their major mistakes. Are you just standing in the shadow? As any smile that come on smile. Oh, I can still hear you say, as clear as the day, I'd like to make it worth your while. Oh, but it's a sad reminder when your organ grinder has to come to you for rent. And all you got to give him is the use of your sideshow tent. Yes, and that's all that remains of the years spent doing the rounds. And it never rains. About beggars, you can't complain about the rules. Well, you know what to say about beggars. You know who's the first to play this tune. You never gave a damn about who you pick up and even laying bleeding on the ground. Scoop people over on your way up. Thought that you were never coming down. Take you out and bought every valley with his hand up smothering your screams. He'll screw you down in Tin Pan Alley in the city of a billion dreams. Get out of my mind. Dire Straits. Ora veniamo invece a un appuntamento di questa sera che è dalle 19.30, si terrà presso all'Osteria del Pallone. Parliamo di Unipop, questo luogo di dibattito ma anche di relazione, che viene raccontato dal professor Antonio Genovese, tratto dalla rubrica di ieri pomeriggio della nostra emittente Signori e Signori, il welfare sparito. Sentiamo che cosa è questa Unipop. Unipop è una gioiosa università popolare dell'associazione Naufragi. L'associazione Naufragi è un'associazione che mette insieme varie associazioni cooperative bolognese e opera per la solidarietà. Ecco, Unipop vuole affrontare un po' l'aspetto culturale dei temi che vengono trattati sul piano dell'intervento sociale. Cos'è Unipop? Beh, intanto è uno spazio. La piccola carovana ha messo a disposizione l'Osteria del Pallone, dove faremo la serata venerdì, per cui noi, quando vogliamo, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, possiamo fare delle serate culturali, ma non vogliamo spaventare nessuno, perché in realtà sono serate di convivialità. Ecco, un Unipop cosa si propone? Quindi culturali a tutto tondo, perché la convivialità è cultura assolutamente. Certo, decisamente. Abbiamo proprio bisogno di quello, abbiamo bisogno di una cultura di solidarietà e di convivialità, una cultura che faccia stare insieme le persone, faccia parlare, faccia discutere. Per questo è, diciamo, ora gestita da vecchietti come me che sono in pensione, fanno tutto volontariamente, però è un contenitore che è molto aperto a tutti, aperto a giovani che hanno voglia di dire delle cose, che hanno poesie, libri da presentare, musica da presentare, dibattiti da fare. E anche fare dibattiti, incontri fra le generazioni, fra la mia generazione e la vostra e quelle di più giovani, insomma. Ecco, e ovviamente il tutto è svolto sul piano volontario e gratuito, insomma, chi partecipa, sia chi organizza, sia chi viene, lo fa come un gesto appunto di solidarietà, come un gesto di gratuità. Diciamo, è un luogo in cui si vorrebbe, insomma, dare un po', ma un piccolo luogo, uno degli impegni che ci siamo presi, noi che abbiamo partecipato a questa organizzazione, uno degli impegni è procedere lentamente. Noi siamo vecchi, non possiamo correre, perché correre per noi è un disastro, che le lezioni, tra virgolette, che ci saranno, non saranno mai lezioni accademiche, ma saranno lezioni, insieme ci sarà un momento di musicale. Ecco, quindi la traccia vuole essere proprio questa, un luogo dove si fa, si parla di solidarietà e si portano in luce quelle buone pratiche, quelle buone situazioni che si creano, in cui la solidarietà è attiva e praticata, ma nello stesso tempo, io direi a maggior ragione oggi, con quello che sta succedendo in Siria, con quello che sta succedendo ai curdi, occorre proprio ricostruire luoghi di pace, luoghi che siano capaci di esprimere parole di pace, ma anche azioni verso la costruzione della pace. Cominceremo alle 19.30, sarà una serata con apericena, sarà sostanzialmente una serata che ha un obiettivo molto preciso, quello di raccogliere fondi a sostegno di Mediterranea, Saving Humans, e delle navi Mare Ionio e Alex che operano per il salvataggio di naufraghi nel Mediterraneo. Questo tema è un tema che è sotto gli occhi nostri tutti i giorni, quotidianamente, una volta nel Mediterraneo che ci riguarda, altra volta il Mediterraneo verso la Turchia, insomma ogni giorno ci sono sbarchi e ci sono persone che rischiano la loro vita. Ecco, dalle 19.30 cominceremo con proiezioni di filmati sugli sbarchi, ma anche un po' di riflessioni, per esempio la di Mediterranea di mare e Mediterranea di terra. Ne parleremo con Domenico Muzignat, che è appunto di Mediterranea, e con gli attivisti della Mare Ionio, della nave Mare Ionio. Poi ci saranno testimonianze di migranti salvati in mare, per quelli che te la sentiranno di parlare. E abbiamo pensato anche però di dire, va bene, questo succede, ci sono i migranti, c'è questo intervento importantissimo che si sta facendo per salvare le vite umane, ma poi, una volta che sono salvati, ma cosa succede a questi migranti? Allora su questo ci sarà una relazione a brevi relazioni, a brevi interventi di alcuni, Giacomo Rossi, Erika, che è proprio presidente di Naufragi, Erika Capasso, Antonella Ciccarelli, Yolanda Stumpo, che lavorano proprio in questi settori qui, lavorano con migranti richiedenti asilo, ma anche con migranti irregolari. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9 e 30 minuti di questa giornata del 18 ottobre, venerdì. Dunque, la impaginazione della nostra rassegna stampa, come sapete, è sempre un po' ribelle, perché non partiamo, difficilmente partiamo dall'ultima velina passata ai giornali, da Renzi, da Orfini o magari da Di Maio. Cerchiamo di guardare le cose più grandi che i giornali molto spesso non vedono, o magari vedono solo con dei trafiletti. Per esempio, è in corso all'ONU il dibattito sulla FAO, cioè della fame nel mondo. Evidentemente la cosa è talmente grande che non riesce a entrare nelle pagine di troppi giornali. Entra, seppure di traverso, questo argomento nel Sole 24 Ore con Micaela Cappellini, che non guarda in realtà l'incontro della FAO, ma vede il post-sinodo sull'Amazzonia che è organizzato da Papa Bergoglio, che ha visto questo incontro avvicinato del terzo tipo tra Carlo Petrini, che si è definito agnostico, e il pontefice. Oggi l'intervista va proprio a Carlo Petrini, quello di Slow Food, del chilometro zero. Quindi parliamo di cibo. La sfida della sostenibilità è allungare la vita dei prodotti. Appena tornato dal sinodo, dice, è materia di intervista, e la prima domanda è: Carlo Petrini, che cos'è la sostenibilità? Perché spesso diciamo sostenibile, però magari dobbiamo anche farci un ragionamento sopra, ce lo fa per noi Carlo Petrini. Il termine sostenibilità a livello internazionale deriva da sustain, il pedale del pianoforte che allunga la durata delle note, ed è proprio questo il vero significato della sostenibilità, ovvero sia la durata. Tant'è vero che i francesi, per dire sostenibile, dicono durable, che è dura di più. Un'attività, un'impresa sono sostenibili quando ciò che realizzano ha una durata più lunga. Fino a poco tempo fa il paradigma dominante era quello che imponeva di produrre sempre di più se si voleva far crescere l'economia. Certi prodotti vengono addirittura progettati e confezionati in modo tale da durare di meno, ma questo è dalle calze di seta alle lavatrici, direi, per essere sostituiti con prodotti nuovi. Siamo arrivati al punto in cui quel tipo di soluzione non sta più in piedi, non solo per i danni che causa l'ambiente, ma anche dal punto di vista finanziario. Allora, domanda ancora per il Sole 24 Ore, l'amica Micaela Cappellini. Oggi però chi parla di sostenibilità parla di riciclo, di riuso. Il riciclo e il riuso, risponde ancora Petrini, sono solo elementi collaterali al concetto di durabilità. Entrambe sono pratiche importanti per dare una mano e fanno decollare l'economia circolare, ma se non si ragiona sulla durata non si va da nessuna parte. Allora arriva l'altra domanda. Lei si è detto sempre contrario agli organismi geneticamente modificati. Oggi però si sta facendo avanti una nuova tecnica, quella del genome editing, che non prevede di innestare geni strani nel DNA delle piante, ma semplicemente silenzia alcune sequenze della pianta stessa. Io sono per studiarla questa nuova possibilità, risponde infine Petrini, questa tecnica, però c'è un elemento che vorrei fosse ben chiaro, che i risultati di questa ricerca non diventino proprietà privata, che siano accessibili a tutti, perché quello che non mi è mai piaciuto degli OGM è, oltre ad essere contrario nel merito, è stato anche il fatto che sono oggetti di brevetti la cui esistenza crea molti problemi ai cittadini. Ricordiamo che i coltivatori con gli OGM, per esempio, non possono risseminare e quindi fare una cosa, un'agricoltura davvero circolare, ma ogni volta devono comprare le semente dalle multinazionali come la Monsanto ed altre. Altro tema che riguarda questa giornata contro le povertà, lo ritiro fuori invece il manifesto con Roberto Ceccarelli, che riprende lo spirito originario di quello che era il reddito di cittadinanza, prima che venisse contaminato da mille se e mille ma. Il lavoro non basta più, ci vuole un reddito di base. L'ONU, non Beppe Grillo o qualche estremista impazzito, l'ONU invita alla lotta contro l'indigenza, ma la crisi resta e l'agenda del 2020 dell'Unione Europea ha fallito. Le associazioni dicono al governo modificare il reddito di cittadinanza, quindi dare un reddito che, per chi non ha, perché ormai l'economia e l'industria sempre più concentrandosi non può dar lavoro a tutti, quindi c'è un problema con cui fare i conti. Prima della crisi, che non è mai finita, quella del 2008, le diseguaglianze, le povertà, le privazioni materiali assolute sembravano un ricordo lontano nei paesi dominanti. Le violenze sociali, sessuali o razziali erano considerate eccezioni o deviazioni comunque da esecrare rispetto agli ideali del mercato portatori di civiltà. Un concetto assolutamente entrato in crisi. Cambiamo argomento, parliamo di migranti, mi sposto sulla Repubblica pagina 8, articolo firmato da Annalisa Cuzzocrea. Migranti, sconto sul patto Italia-Libia, il rinnovo dell'intesa spacca il PD. Il 2 novembre scatterà la proroga automatica degli accordi sulla Guardia Costiera di Tripoli, accusata di gravi violazioni dei diritti umani. Ma la revisione non è all'ordine del giorno da parte del governo. Orfini, l'oppositore del PD, dice una vergogna. E il documento prevede il contrasto ai flussi, il supporto tecnico, però non si parla di diritti umani, che non sono neanche citati, e l'impegno libico non è nel rispettarli. Si parla anche del naufragio, il naufragio che è avvenuto il 7 ottobre e dei suoi corpi recuperati nei fondali. Sono 7 corpi, tra loro un bambino e una giovane donna, probabilmente la madre, che aveva le braccia tese in un ultimo abbraccio. In azione i sommozzatori della Guardia Costiera, all'appello mancano ancora almeno 5 persone. E appunto si parla del naufragio che risale al 7 ottobre. E allora, sempre sul terreno dei migranti, il Manifesto parla del naufragio del 7 ottobre, come tu già citavi, con Alfredo Marsala. L'inferno sott'acqua, recuperati altri 7 corpi. Sono scesi negli abissi, 6 miglia a sud di Lampedusa, 60 metri di acque buio, seguendo le tracce segnate dal robot che 3 giorni fa ha individuato la barca affondata con il suo carico di migranti. I sommozzatori della Guardia Costiera hanno raggiunto il relitto in un'atmosfera tetra e spettrale, tra pezzi di legno e ferro, hanno raggiunto i cadaveri proprio dove il fermo immagine delle video riprese del Rob li aveva segnalati. Questo è quanto, ma non si commuove il giornale Il Tempo di Roma per questi morti, perché evidentemente guarda altrove. E dov'è che guarda? La fregatura dell'accordo di Malta, quello che doveva in qualche modo prevedere una redistribuzione che poi non c'è stata. Lo strombazzatissimo intesa con l'Unione Europea sulla redistribuzione è un danno per l'Italia, se in vigore è costretto a prendere il doppio di quelli arrivati. Suicidio per far dispetto a Salvini. Questo è il commento finale. Tutto il mondo sembra essere legato a Salvini. Secondo Il Tempo, la gente che parte magari dall'area subsahariana e fa un viaggio tremendo, prima nel deserto e poi nelle barche della disperazione, passando per i lager libici, lo fa per far dispetto a Salvini. Questo è uno strano salvinocentrismo. Ma veniamo invece alla pagina ambientale. Rispiamo quanto l'ambiente si sta con la fame e sta con l'immigrazione di interi popoli. Fa un gran scalpore in Italia, questo della manovra che poi più tardi parleremo, questo tema plastica, l'imposta da un euro al chilo. Questa cosa sembra che sia una vessazione tremenda, sembra che gli italiani debbano rivoltarsi come un solo uomo rispetto a questa ipotesi. La misura scatta dal prossimo 1 giugno e non riguarda il materiale riciclato, le critiche degli industriali, che subito andiamo a cogliere col Sole 24 Ore, perché non si fanno attendere queste critiche che arrivano dal Corriere, che sì, dal Sole 24 Ore, che lo trova a pagina 15. E quindi abbiamo questo il tema che riguarda dove le imprese si lamentano fortemente perché dicono di essere penalizzate. E allora troviamo questi spunti che arrivano dal foglio della Confindustria e che si lamentano, dicono che danneggerà tutta la filiera degli imballaggi, affermando che questa cosa non aiuterà la ricerca. Questo è. Nel frattempo, sempre il Sole 24 Ore, però, è molto impegnato sulla green economy. Abbiamo già visto l'intervista a Petrini. L'altra intervista invece va a tutt'altro personaggio, De Scalzi, amministratore, boss, CEO, si dice oggi, dell'Eni, e quindi del petrolio, che proprio dice: i rifiuti sono il petrolio del futuro. Claudio De Scalzi, 5 anni fa, dopo il nome del numero 1 della 1 Eni, spiega strategie e risultati. Quindi l'Italia è diventata un nostro hub tecnologico, dice, con 7 centri di ricerca, 1500 ricercatori, 3 miliardi di investimenti e 6 reti rapporti con 70 enti di ricerca e università. Chiaramente l'Eni e De Scalzi nascondono un po' tutte le discariche nel terzo mondo, come quelli in Nigeria, di tutti i rifiuti petroliferi. Ma questa, insomma, è la parte, la vetrina del riciclo in Italia. E non si può parlare di ambiente senza citare l'Ilva, leggo da pagina 17 sempre della Repubblica. Manager Ilva, niente scudo legale e il rilancio di Taranto ora rischia. I 5 Stelle ottengono lo stralcio della norma, cala la produzione, sindacati preoccupati. La parola chiave dell'articolo è immunità penale legata al piano ambientale. Prevede che i manager Ilva non possano essere oggetto di procedimenti giudiziari per reati ambientali fino al completamento della bonifica prevista dal piano del governo. E da Taranto passiamo alla riserva naturale di Sasso Fratino con il resto del Carlino a pagina 17. L'uomo che difese la foresta UNESCO compie 100 anni, l'eroe degli alberi. Festa nell'Appellino forlivese per Fabio Clauser. Impedì il taglio della riserva naturale di Sasso Fratino. Oggi i faggi vecchi 5 secoli fanno di questo paradiso un bene naturale protetto dall'ONU. Giganti verdi nati ai tempi di Leonardo, sempre si parla di questo bosco, un bosco deciduo tra i primi 10 più antichi dell'emisfero nord. E allora, per chiudere questa pagina largamente affidata a temi della fame, della migrazione e dell'ambiente, ci leghiamo inevitabilmente alla vicenda della guerra, e lo facciamo con questo titolo che compare nell'ultima pagina del Manifesto, la firma di Pino Dragoni: le acque contese del Nilo. Sappiamo che l'oro blu è uno dei grandi, forse ancora più facitore di contese, se non condiviso, forse ancora più del petrolio. È una gara dura comunque. Le acque contese del Nilo, Etiopia ed Egitto sono ai ferri corti sul progetto di diga portato avanti da Addis Abeba. Il Cairo teme che i lavori potrebbero complicare una situazione idrica già grave a causa delle politiche del regime del Cairo. Lunga 1800 metri, altra 155, avrà una capacità totale di 74 milioni di metri cubi d'acqua. Questo è. Tornano quindi a salire le tensioni tra Egitto ed Etiopia per la diga della discordia. L'Egitto ha incolpato l'inflessibilità dell'Etiopia, mentre quest'ultimo ha criticato il Cairo per aver avanzato una proposta con condizioni irricevibili. L'accusa secondo cui i negoziati sarebbero giunti a un punto morto è completamente falsa, ha dichiarato il ministro etiope per l'acqua e per l'energia. Alcuni progressi vengono stati fatti, ci sono degli aspetti in sospeso, ma crediamo che possano essere risolti prima del completamento della diga, che per l'Etiopia, questa, la grande diga, è considerato una rinascita, mentre per l'Egitto, appunto, potrebbe essere la diga della diga, c'è cioè la diga della diga da Swan. Questo è il problema. Un'altra grande diga è motivo di discordia assoluta nel Medio Oriente, e la grande diga che la Turchia sta progettando sarebbe a secco tutte le regioni a valle di questo invaso. Ma questo è uno dei tanti motivi che poi spingono l'acceleratore dei cannoni, e ci spostiamo immediatamente allora nell'invasione turca dei fascisti di Erdogan in territorio curdo. La resistenza con armi leggere, ma ora il Rojava sarà svuotato. La tregua, secondo Lorenzo Cremonesi, è una vittoria turca. Già saltano i depositi di munizioni, quindi queste 120 ore di tregua, con l'intimato respinto peraltro di Erdogan e i curdi, così avete tempo per disarmarvi, beh, in qualche modo sarebbe una vittoria dei turchi, secondo il Corriere, sicuramente per Putin, secondo la maggioranza dei giornali. La Turchia sospende i raid sulla Siria. Mediazione USA, via i curdi dalla zona cuscinetto, ma lì ora ci sono soldati russi di Assad e russi. Quindi per Erdogan la cosa si faceva più complessa di quanto prevista, sia perché la resistenza curda è più vivace, tra virgolette, di quanto il sultano avesse appunto preordinato, e anche per la presenza di turchi e siriani, che complica la matassa già complessa di sua. Quindi arriva anche Pence, l'inviato di Trump, che rientra a gamba tesa nel nord della Siria 24 ore dopo aver mandato al diavolo i curdi. Il suo vice Pence e il segretario di Stato Pompeo vedono Erdogan e ottengono una sospensione della campagna militare contro Rojava. In cambio Trump gli garantisce una zona cuscinetto di 20 miglia dentro il territorio siriano, da cui i curdi dovranno ritirarsi entro 5 giorni. Ma i curdi sono già ritirati un mese fa. Chi invece nel frattempo è arrivato proprio in relazione alle bombe turche, l'esercito siriano, su richiesta della stessa Rojava. È davvero complesso solo spiegarlo, immaginate la vivere. Nei 9 giorni di raid, 300.000 sfollati, c'è 218 civili uccisi, ed Erdogan li riottiene quel che gli USA avevano dato già da un mese fa, ma lo riottiene pieno di soldati siriani e russi. Ora resta in attesa della reazione di Mosca e anche di Damasco. Anche la stampa si occupa in primo piano della tregua in Medio Oriente. L'America ferma l'avanzata di Erdogan, cessate il fuoco di 5 giorni in Siria. Intesa con Pinze Pompeo, i miliziani curdi si ritireranno a 20 chilometri dal confine, sospese le sanzioni USA. Troviamo anche una testimonianza, il racconto di Haber di 28 anni che dice: nessuno ama la Turchia ma vogliamo solo vivere in pace, eravamo in fuga e ora torneremo a casa. Abbiamo vissuto la prima serata senza bombardamenti, c'erano moltissime persone in fuga fino a poche ore fa, poi tutti si sono fermati, tornati nelle loro case, suonavano i clacson e festeggiavano. Cambiamo quotidiano e passiamo alla Repubblica, che ovviamente anche qua in prima pagina la guerra del sultano. Si parla di armi chimiche contro i bambini, ma Ankara nega l'orrore in Siria. Le foto e la denuncia dei medici curdi dopo l'attacco dei turchi, sono state usate sostanze proibite. Si parla di napalm e di fosforo bianco che prende fuoco a contatto con l'aria producendo questo fumo denso e luce, e si usa con bombardamenti dall'alto, brucia a lungo anche giorni dopo il lancio. A pagina 4 sempre della Repubblica troviamo un appello all'Europa firmato da diversi personaggi, principalmente di Roberto Saviano, che appunto lancia un appello dalle colonne di Repubblica. Sul sito si trova anche in inglese: per fermare il massacro del popolo turco dopo l'attacco della Turchia del nord, nel nord della Siria. E tra altre persone è stato firmato da Elena Ferrante, da Mario Vergas, da Fernando Aramburu, da Luis Sepulveda, e insomma intellettuali e premi Nobel firmano in difesa degli abitanti del nord della Siria che sono stati colpiti dalle forze militari turche. Sì, uno degli effetti collaterali, certamente non secondari, di questa offensiva turca in territorio siriano è rimettere in sella Assad, che era il dittatore siriano, che era assolutamente in crisi, e invece adesso presentandosi come salvatore per l'unità nazionale, chiaramente più forte. Ma tant'è che si legge che il fronte di pace spacca, leggo il manifesto, le opposizioni siriane, perché tra chi dice è inevitabile, chi invece non può stare comunque con Assad. E su chi vince e chi perde anche il giornale torna sull'argomento. Erdogan va all'incasso, Gianni Callissin, Trump si intesta la pace, ma il vincitore è Putin. Devo dire che gli sconfitti sono i popoli in questa vicenda. L'intesa ribadisce il ruolo di Damasco, però arriva dopo l'accordo mediato dal Cremlino. Verso il voto del 2020, il leader americano potrà usare lo stop alle armi col proprio elettorato. Ed è curioso che lo stop alle armi, ma forse neanche in Siria, sicuramente avanti con le armi in casa, dove si sparacchia a tutto. Ma procediamo allora e veniamo sempre dalla pagina internazionale all'altro tema, la Brexit, questa accelerazione dell'ultimo momento che alcuni avevano previsto, altri invece vengono sorpresi. Johnson sacrifica il Nord Irlanda, questo è verso il divorzio tra Regno Unito e Europa, raccontato da Luigi Ippolito del Corriere. Johnson sacrifica il Nord Irlanda e firma l'accordo con l'Europa. Svolta a Bruxelles, la provincia resterà legata all'Unione Europea, ma il Premier per ora non ha i voti in Parlamento, quindi la frontiera via terra rimane aperta per un tot di anni. I controlli verranno fatti nei porti verso l'Inghilterra. Alcuni conservatori e gli unionisti protestanti vogliono votare contro domani la decisione. La leader del partito orangista, la destra nordirlandese, ha detto che non ci sta, perché chiaramente ha tutto da guadagnare in questa uscita e allontanamento dall'Eire. Ma cosa stabilisce il patto per la Brexit? Dice il Corriere che parla di persone, merci, soldi, ecco i punti. Il periodo transitorio è tutto congelato fino alla fine del 2020. I cittadini dell'Unione Europea nel Regno, cosa che interessa molto gli italiani, perché sono tanti i nostri compatrioti che lavorano per esempio a Londra nei vari pub, diritti garantiti per gli euro britannici, il conto del divorzio, Londra pagherà 40 miliardi di euro. Questi sarebbero i punti riassunti dal Corriere, che dà in prima pagina foto di Johnson, ormai amicone, che stringe la mano a Juncker, che forse ancora una volta ha fatto troppo il gomito. Comunque, Regno Unito, Brexit, accordo con l'Unione Europea ma non con gli unionisti. Questa invece è Sabrina Provenzani, che è molto più prudente che non il Corriere sul il compromesso raggiunto. Il Premier Johnson trova un punto di incontro con Bruxelles ed evita il confine tra le due Irlande, ma domani domani il DAP, che è il partito degli orangisti nordirlandesi, la destra anglicana nordirlandese, potrebbe votare no. Questo è allora conseguenze pratiche, anche qui si valutano cosa cambierà: sanità, passaporti, dogane, commercio, come sopravvivere alla cosiddetta perfida Albione, come la chiamava il Duce, come cambierà il quotidiano il rapporto con gli inglesi. Fino a dicembre 2020 non muterà nulla, il conto del salato per gli europei arriverà poi in seguito, ma in seguito bisogna vedere se poi il Parlamento inglese ratificherà questo accordo, perché mancando i voti del DAP, come prima si diceva, Johnson conta di avere altri voti magari da una parte dei laboristi, ma sembra per il momento non arrivare questi voti, perché Corbyn ha pronto l'emendamento per atterrare Boris. Paul Mason, che è un giornalista molto accreditato presso il Parlamento inglese, la strategia di Labour è ottenere un secondo referendum. Leggo dalla Stampa, pagina 10, dall'inviato a Bruxelles Marco Bresolin: accordo con la UE, Johnson vede la Brexit, cade la clausola sul confine irlandese, nuova intesa fra i 28, il premier britannico ora Westminster dica sì. Sono 320 i voti dei deputati alla House of Commons che servono per far approvare l'accordo, 21 i ribelli conservatori espulsi dai Tory, che ora a Westminster hanno 259 deputati, e 10 la pattuglia di delegati del partito unionista irlandese che sostiene la maggioranza. Continuando sull'argomento, mi sposto sulla Repubblica, pagina 6 e 7. Brexit esce dal tunnel, sì all'intesa con l'Unione Europea, ora lo scoglio del voto. Si parla anche di domande e risposte tra accordo, transizione, divorzio, così Londra può dire addio. A sbloccare lo stallo è stato un escamotage che sposta la frontiera irlandese nel mare. Il premier ha accettato un compromesso che May aveva rifiutato, e si parla appunto del nodo da sciogliere riguardo il confine in mare, lo stratagemma che fa paura ai ribelli d'Irlanda. Gli unionisti del DUP pronti a bocciare l'intesa, un no che potrebbe essere fatale ai piani di Boris. Si parla anche di quali saranno i prossimi passi e di cosa prevede il nuovo patto, sempre a pagina 6 della Repubblica. E quindi andiamo in Spagna, perché non si placano le proteste per l'indipendentismo della Catalogna, ed è questo che arriva da un manifesto ancora: Catalogna, sciopero generale, spunto un nuovo referendum. Quindi se Corbyn punta un nuovo referendum per il Regno Unito, invece i indipendentisti della Catalogna puntano a un replay del referendum che a suo tempo scatenò tutto il problema, che ancora non viene assolutamente risolto. Leggo che il presidente, cioè più o meno senza avvisare nessuno, questa è la lagnanza di molti, annuncia una nuova consultazione referendaria in quel di primavera. Appuntamento comunque per le mobilitazioni continue in questo che viene chiamato tsunami democratico nel movimento catalano-spagnolo. Appuntamento alle ore 17 per il blocco indetto da due piccoli sindacati indipendentisti. Luca Tangredi Barone dalla pagina del manifesto. Ma vedremo quanto sarà seguito dalla popolazione, come finora ha largamente partecipato. Ma la Spagna, che vede una destra all'attacco sulla questione della Catalogna, ha un'altra vicenda che la divide. Questa è sul simbolico, è un problema di memoria, e ce la racconta Aldo Cazzullo dal Corriere della Sera. Franco divide ancora la Spagna, con quale bandiera riseppellirlo? Franco, il fetente dittatore, quello che di Guernica, quello che dei massacri in Catalogna, peraltro, e non solo lì, anche nei Paesi Baschi o a Madrid, è stato sepolto ancora da re, perché era ancora non c'è stata una defrancatizzazione in Spagna, e allora gli eredi vogliono rivolgere il suo simbolo. Il governo socialista si oppone, era un dittatore. La scadenza è il 26 ottobre, le spoglie saranno risumate per essere sepolte poi in segreto. Per quanto riguarda gli esteri, l'unica notizia che viene riportata dalla Stampa è una notizia che tratta di diplomazia. Riker, Dipartimento di Stato: la Russia vuole minare le istituzioni democratiche anche a Roma. Entrano in vigore i dazi, ma gli USA aprono all'Italia, è possibile l'esenzione. E questo è il caso che l'inviato a Washington Paolo Mastrolilli ci presenta. Nel frattempo Mattarella è in visita a Washington, e dopo il gelo con Trump sembra invece che scatti il feeling con Nancy Pelosi. Ecco, abbiamo già parlato con Radio Bullet del dei reperti egiziani, con cui i turisti che si presentano nudi e fanno video dentro le piramidi. Torniamo sull'argomento, perché in modo forse anche più cogente, la storia ha scoperto 20 tombe egizie nell'antica Tebe, il più grande ritrovamento degli ultimi anni. L'Egitto è uno scrigno senza fine. Un gruppo di sarcofagi intonsi può svelare i segreti degli antichi sacerdoti. Questa è la notizia che arriva dal giornale. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Dall'oculista, sì, dall'oculista. Ho pagato una sigla lire mille, le mie pupille, le mie pupille. Mi hanno detto che non rosica, non risica. Voglio una visita, fammi una visita. Sono inciampato su una tolla della Cirio. Voglio collirio. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Perché stavolta la patente non hanno torto, non vedo niente. Mi rifiutano anche di partire a razzo. Non hanno torto, non vedo un cazzo. E tutti parlano del mio sguardo magico. Non hanno torto, sono un po' strabico. E poi confondo Berlusconi con le ma questa volta è proprio uguale. Vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Ma sarò la dava? E se non vede Cheope, chissà come se la passa con Micerino. Ma a proposito di miopia, direi che uno sguardo sulla politica italiana ha bisogno davvero delle lenti del gruppo Valanfasca, perché leggo dal Corriere della Sera: emendamenti, la manovra è sotto assedio. Ovviamente sotto assedio dell'opposizione, questo può starci, ma sotto assedio, dice il Corriere, da Renziani e 5 Stelle che vogliono cambiarli in aula. Scontro su contanti, quota 100 e sugar tax, la tazza del sughero. Sì, salvo intese, alla manovra non vuol dire che sia terminato il capitolo dei conti dello Stato, che si vuole anzi voltare pagina. Anzi, 5 Stelle, Italia Viva di Renzi si preparano ad una battaglia di emendamenti in Parlamento per cambiare la legge di bilancio. Tra i 5 Stelle Conte scontro su più fronti, ma anche tra i gerenziani il Premier non gode di alto gradimento, è accecato dal fanatismo contro di noi. Questo, ognuno si sente come un cristiano nell'arena dei leoni. I leghisti pensano che i migranti del mondo ce l'hanno con Salvini e i renziani pensano che il mondo giri contro di loro. Comunque, anche se sembra che stia riconsolidando un asse Renzi Di Maio, qui siamo tutto si va sul contrario. Alla manovra potrebbe essere il terreno sul quale far valere le proprie composizioni, a cominciare da contanti e sugar tax. Questo è il quadro che arriva dal Corriere, che poi rientra all'interno del suo foglio in sesta pagina sull'argomento, citando appunto, riprende i vari temi e approfondendoli. E allora anche noi andiamo in sesta pagina e troviamo: Di Maio critica la manovra, stop da Conte già approvata, quindi non ridiscutiamo quello che si è già discusso. Il capo 5 Stelle allora riunisce i suoi ministri. Il duello più duro è sugli evasori. Per il governo le norme si potrebbero inserire nel decreto fiscale. È il tema del carcere, sì, carcere no, per chi evade. E allora il tema dell'evasione è il manifesto, che parla di innocenti evasioni. che leggera follia tra Di Maio e Conte, sulla manovra scontro tra Di Maio e Conte. Il capo grillino chiede un nuovo consiglio di ministri, ma dopo il no del premier convoca per oggi la squadra del governo 5 Stelle e insiste: carceri per i grandi evasori, indulgenza per i commercianti, idraulici, tassisti, elettorato, braccio di ferro anche sul tetto del contante. E allora le mappe di evasione e corruzione sono la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro all'anno, 211 l'economia nera, 60 di tangenti, 110 di evasioni, 84 da IRPEF, da imprese autonomi, IRES, IVA, IRAP, 6 IRPEF da lavoro dipendente. Questo è quanto. E dai grandi ai tanti piccoli evasori, la mappa dell'evasione fiscale viene riportata poi a pagina 3. Per chi fosse interessato posso ve la segnalo. Mentre i giornali della destra, ovviamente, senza neanche tanto tacerlo, si schierano per l'evasione fiscale. E allora, per esempio, la Verità: Conte, abbassiamo le tasse, infatti sono 12 miliardi in più. La Verità fa i suoi conti, fa solo lei comunque. Oppure il Libero, che chiama gli italiani alla rivolta: paese martoriato dalle tasse. Sarà anche vero, ma non da questo governo, anche da quelli precedenti, mi sembra, e anche Berlusconi compreso. L'Italia si ribella in piazza contro gli aguzzini, un'immagine anche tipo i miserabili, no? Domani tutto il centrodestra sfilerà per dire no a una manovra che mette tanti piccoli balzelli, toglie le detrazioni a chi denuncia, a quel che guadagna. Salvini, Berlusconi e Meloni sono insieme, come si sono visti ieri in una conferenza stampa. Il giornale poi porta avanti la proposta di Forza Italia: tetto alle tasse, una battaglia di civiltà. La battaglia di civiltà è una progressività delle tasse, non metterci un tetto. Proposta di Forza Italia: nella carta un limite al fisco vampiro. Addirittura mettere in costituzione, questo è curioso, evasori in cella, contanti bibite, lite nel governo, questo è quanto. E poi ci sono dei volontari, dei patrioti dell'evasione fiscale, perché è Sgarbi che ha detto: l'evasore fiscale è un patriota. E allora commenta la cattiveria di Spinoza al Fatto Quotidiano: se lui è un onorevole. Si parla di legge di bilancio anche in apertura sul Resto del Carlino. Di Maio vuole picconare la manovra, duello con Conte, i 5 Stelle criticano la stretta su partita IVA e contante, il Premier mi dice misure approvate. Salvini alla finestra, l'asse giallo-verde può spuntare in aula per affossare alcuni provvedimenti. E continuiamo con i nodi dei conti pubblici sulla Stampa, sono pagina 6 e 7, manovra parte lo scontro sul carcere per gli evasori, spunta l'IMU sulle trivelle. L'Italia Viva e PD sono contro le manette, la norma potrebbe cambiare, le partite IVA e i commercianti protestano e Di Maio sta con loro. Troviamo anche un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dice: nessun regalo alle banche, è stato il governo a porsi il problema delle altre commissioni. E ancora: avrei voluto 1000 euro subito come soglia del contante, ma un segnale occorreva darlo. E continuiamo sempre su l'argomento governo a pagina 12 della Repubblica, manovra Di Maio sfida il Premier, con tante partita IVA così non va. E troviamo anche sulla Repubblica un colloquio con Giuseppe Conte, che qua dice: aliquota unica al 20% fino a 28.000 euro, riforma nel 2020, riduzione anche sui redditi più alti. E replica al Movimento 5 Stelle: sugli autonomi si può limare, ma non rifaremo il CDM sul contante. E continua sempre la Repubblica con il tema della manovra: il deficit sale, gli altri 2 miliardi, un'imposta sulle bibite. Il governo punta a ottenere 200 milioni colpendo le bevande zuccherate, detrazioni ridotte per redditi sopra 120.000 euro, salvi gli interessi sul mutuo. Fumo e gioco, le tasse del vizio rendono al fisco quanto la casa. Le mosse del centrodestra poi vengono invece così descritte dal giornale, da Stefano Zurlo: via l'operazione Umbria, cacceremo i comunisti da regione e governo. Che, se uno legge dal giornale, sembra che i cosacchi del Don abbiano invaso l'Umbria e tengono con raid, con squadri bolscevichi nel terrore il paese. Berlusconi, Salvini e Meloni a Perugia: è talmente insignificante la proposta, la concorrente per governare l'Umbria, che neanche viene citata. Centrodestra unito per la spallata a Conte. Questo è quanto. L'Umbria è un test nazionale, questa conferenza stampa viene ancora ripresa, questa volta il Corriere cita in fotografia in didascalia Donatella Tesei. L'Umbria è un test nazionale, il centrodestra si ritrova ma Casa Pound in piazza divide. Il leader a Perugia per sostenere Tesei, domani la manifestazione a Roma, Carfagna ma insieme all'estrema destra invece ci sono, mi spiace per loro. Salvini, evento aperto a tutti. Non so se si presentano ragazzi di centro sociale, si sono così aperti a tutti. Vedremo domani. Anche la Repubblica, pagina 19, parla di questa manifestazione. Fascisti in piazza, Carfagna dice no, Berlusconi dice ci sarò. Casa Pound a Roma spacca il centrodestra. Non ha i nostri valori. E Salvini dice: viene chi vuole. I neofascisti che tingeranno di nero la piazza e San Giovanni a Roma diventano un caso e finiscono con lo spaccare con 48 ore di anticipo il centrodestra, che in quella piazza voluta da Matteo Salvini si presenterà unito dopo tanto tempo. Poi c'è il guardabuglio Emilia Romagna, perché i 5 Stelle non vogliono Bonaccini per aderire alla coalizione contro la destra, e il PD invece insiste su Bonaccini, e allora le regionali descritte da Vandamarra per blindare Bonaccini, il PD offre la campagna. Campagna, sacrificando De Luca che non è affatto d'accordo. Nel simbolo delle elezioni del 26 gennaio ci sarà il nome del governatore, cioè quindi PD per Bonaccini, giallo rosa, l'accordo è difficile ma non impossibile, nessuno scambio con Raggi e l'Appendino. Ma naturalmente l'appuntamento domani a Firenze con la Leopolda, la vetrinetta di Renzi di Italia Viva. Per la Leopolda lo stesso software di Donald Trump. Oggi il via Matteo Renzi apre la 10ª decisione edizioni. Il suo sito è stato curato da National Builder, l'azienda che ha gestito anche la campagna per la Brexit. E il Telegraph accusa: la startup avrebbe acquisito dati da una società che ha violato la privacy degli utenti. Leggo dal Fatto Quotidiano. Comunque questi sono gli aspetti di contorno. Vedremo appunto come sarà questa vetrinetta di Renzi che si illustrerà le penne. È la bella C2G. Con 3.000 lire là. Oh, 15 anni facevo l'amore. Donna più passo, delizia del mio cuore. Oh, 16 anni mi sono sposata. Donna più passo, delizia del mio cuore. Alla 17 mi sono spartita. Bisogna aver pazienza, la sana marita. E la bella G2G, con 3.000 lire, la paspa scorso spingi, con 3.000 lire, la... Torniamo a parlare di cronaca. In primo piano sulla stampa pagina 14, articolo firmato da Claudio Lagueri: impiccati, devi morire qui dietro le sbarre. Insulti e botte ai detenuti, 6 agenti arrestati. Scandalo nel carcere, Lo Russo e Cotugno di Torino. L'ipotesi è di reato di tortura. Gli inquirenti, fenomeno esteso. E, questo argomento viene trattato un po' da tutti i giornali. Ho letto dalla Stampa, mentre la Repubblica riporta sempre il caso, sevizie agli stupratori in carcere, gli agenti che si credevano giustizieri, arrestati 6 dipendenti delle Vallette di Torino, l'accusa è appunto di torture di Stato. E il precedente c'è stato già a San Gimignano, la Procura di Siena ha iscritto nel registro degli indagati 15 poliziotti penitenziari per violenza su un detenuto tunisino, contestato per la prima volta il reato di tortura. Sì, anche il Manifesto: Torino in carcere, torture sui detenuti, 6 agenti arrestati, facevano quelle che vengono chiamate in gergo le squadrette, facendo irruzione all'improvviso nelle celle, pestando la gente, distruggendo quello che c'è nella cella. Insomma, è un metodo di terrore, gestione del potere penitenziario. Poliziotti penitenziari finiti ai domiciliari, 17 indagati, questa è l'accusa, accusati di violenza nell'istituto Lo Russo e Cotugno su reclusi sex offender, ovvero sia, come dice il Corriere, su alcuni carcerati per reati sessuali. Ma francamente, perché uno è carcerato a questo punto non interessa in questo capitolo, interessa unicamente quando un corpo è in mano dello Stato deve essere in qualche modo rispettato. Ma c'è Salvini che dice: io sto con i poliziotti. non c'è nessuna attenuante per queste pestaggini, ma Salvini sta comunque con le divise. Tant'è che Patrizio Gonnella di Antigone, dal Manifesto, dice: il garantismo salviniano e l'apologia di reato. E commenta tra le altre cose: Salvini ha da qualche tempo inaugurato un doppio binario penale. Da un lato massima benevolenza per i presunti torturatori, dall'altro estrema durezza ben oltre i limiti dell'architettura costituzionale per tutti gli altri. Tutti coloro che non indossano una divisa, imputati o condannati, sono destinati a marcire in galera. Chi è un esponente delle forze di polizia avrà da lui indulgenza, vicinanza, pacche sulle spalle. È un modello penitenziario mutuato da oltreoceano, che dà i suoi frutti elettorali a Trump, e cui spera anche Salvini. E allora ieri pomeriggio abbiamo dato un servizio importante che oggi replichiamo in sintesi su Kenneth Reams, 25 anni in isolamento nel braccio della morte per una condanna alla pena capitale, ovviamente nero, che è stata cancellata ma senza che ciò abbia comportato la sua liberazione o lo spostamento in un'altra sezione del carcere. E questa è la storia assurda di Kenneth Reams, condannato nel 93 quando aveva appena 18 anni. Amnesty International ha lanciato una campagna per chiederne la liberazione. La sua storia vi ha raccontato anche il documento Free Man. Noi abbiamo raggiunto la compositrice delle musiche Costanza Francavilla, ma anche molto coinvolta in questa campagna per Kenneth Reams. Sentiamo le sue parole. Ho scritto le musiche originali, ma sono anche molto coinvolta nella campagna per liberare Kenneth, Free Kenneth Reams. Kenneth è rinchiuso in un carcere dell'Arkansas, in una cella di isolamento da 25 anni. Kenneth è stato condannato a morte ingiustamente e ha sempre lottato, non ha mai perso la speranza e non ha mai smesso di lottare contro queste ingiustizie attraverso l'amore e l'arte, e Free Man racconta proprio la sua storia. La sua vicenda, diciamo, la sua sventura comincia, se non sbaglio, agli inizi degli anni 90, giusto? Sì, nel 92 Kenneth partecipa a una rapina a un bancomat con un suo amico che lui praticamente fa da palo durante questa rapina. Il suo compagno si trova davanti a un bancomat per rapinare un passante e, senza che Kenneth se ne accorgesse perché lui stava lontano nella macchina, parte un colpo e questa persona viene uccisa. C'è stato un processo molto ingiusto. Kenneth aveva solo 18 anni. Per la legge dell'Arkansas, se sei complice di un omicidio, anche tu ricevi la pena di morte. E durante il processo Kenneth è stato difeso da un difensore d'ufficio che aveva pochissima esperienza, che aveva oltre più di 100 casi in quel momento, e praticamente c'è stato un patteggiamento con la corte. Hanno detto a Kenneth di patteggiare, dichiararsi colpevole, e avrebbe ricevuto l'ergastolo. Kenneth si è rifiutato perché si è sempre considerato innocente. Non è stato nemmeno chiamato in causa colui che ha sparato come testimone della difesa, e in più c'era una giuria di 10 bianchi con un solo nero in una contea con quasi il 90% di neri, in una parte dell'Arkansas, in un paese, in una contea dove c'è una fortissima criminalità, povertà, e quindi diciamo è un caso razziale. In questo momento Kenneth si trova in un limbo, perché a novembre scorso è stata revocata la pena di morte perché è stato dichiarato che questo caso è un caso incostituzionale, un caso sfondorazzista che ha creato pure molte polemiche. Ci stanno proprio degli incongruenti tra la Corte Suprema e l'Arkansas State, che vuole invece riaprire il caso. Quindi Kenneth non solo è stato condannato a morte ingiustamente e si trova in una cella di isolamento senza nessun contatto con gli altri inmates della carcere, ma tuttora si trova a subire un'ulteriore ingiustizia, perché in realtà la pena di morte gli è stata revocata e lui tuttora si trova nel braccio della morte. Io ho avuto modo di avvicinarmi molto a lui, non l'ho mai conosciuto personalmente, ma da quando ho iniziato a lavorare le musiche del film ho avuto un rapporto abbastanza costante telefonico con lui dal carcere, e lui è un grandissimo artista. Attraverso l'arte è sopravvissuto, ha una grandissima sensibilità anche riguardo alla musica. Stiamo iniziando un progetto insieme e io registro la sua voce col telefonino dal carcere. Lui mi fa avere tramite tutto il carcere le mail i suoi dipinti, che sto appunto curando la sua pagina Free Kenneth Reams su Instagram. Abbiamo iniziato una campagna con Amnesty International, ma ovviamente abbiamo bisogno di tanto supporto per portare questo caso ai media, ai social media, nel nel film c'è pure Johnny Depp, ci sono molti personaggi che stanno abbracciando la sua causa, però non è una causa facile perché comunque c'è stato un omicidio, quindi noi siamo stati in contatto per esempio anche con Peter Gabriel, che si è preso molto cura di questa causa, solo che è molto difficile perché comunque essendoci stato un omicidio, quando si parla di pena di morte, anche se è una cosa ingiusta che andrebbe eliminata comunque, sia che il detenuto sia innocente o no, è veramente un grosso problema e dobbiamo riuscire a non solo a tirare fuori Kenneth, ma a abolire questa pena così disumana. Questo lavoro parla di tematiche come diceva appunto la pena di morte da un lato, la questione razziale dall'altra, e spesso purtroppo queste cose vanno anche di pari passo, perché anche le statistiche fanno vedere che negli Stati Uniti, come dire, una giustizia rispetto alle persone nere è, come dire, sempre più severa, no? E cosa chiede questa campagna? Innanzitutto c'è bisogno di mobilitazione sui social, perché siamo in un periodo in cui questo conta molto, quindi se andate sulla nostra pagina Free Kenneth Dreams su Instagram o Freeman Movie, per favore spargete la voce e appunto seguiteci anche con l'hashtag Free Kenneth Dreams. E un'altra cosa è, abbiamo aperto una campagna su change.org, c'è un sito, c'è un link sulla nostra pagina freekennethdreams.org che potete sottoscrivere, potete firmare, e sarebbe meglio proprio fare un copy and paste di questa lettera e indirizzarla direttamente a Amnesty International, e trovate tutte le informazioni sul sito. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Notizie ancora dal fronte dell'industria, abbiamo parlato prima dell'Ilva, l'impunità che è stata stralciata, veniamo invece all'Italia, che è una matassa che non si riesce a sbrogliare. Leggo da Caro Di Foggia del Fatto Quotidiano, all'Italia proroga ed altri 350 milioni, viene definito giustamente un déjà vu. Nuovo prestito statale, i commissari chiedono più tempo, quindi non c'è all'orizzonte una soluzione, così come non c'è, ahimè, per i lavoratori napoletani della Whirlpool, perché l'azienda, la multinazionale, ha dato questa doccia fredda dicendo che se ne va, appunto. Da qui non ce ne andiamo, Whirlpool non è credibile, i lavoratori in corteo, racconta Adriano Pollice del Manifesto, in presidio anche di notte per difendere i macchinari. Quando i lavoratori sono questi a difendere i macchinari, siamo davvero all'ultima spiaggia. Ma se parliamo di modernità e di capitalismo, da Crotone, Carrefour licenzia 62 lavoratori, workshop, così fa anche prima, risparmia dei soldi, è un imbarazzo, gli guarda, non tornare più domani. Ma andiamo invece a volte ci interroghiamo come siamo messi, e succede a partire anche da fatti di cronaca. L'Occidente muore di suicidi e di natalità. Questo è Massimo Fini, commentatore di una destra diversa da quella che siamo abituati a leggere, quindi in qualche modo un'anima critica e interessante da leggere. E lui, quello che lui definisce mali del secolo, edonismo, egoismo, materialismo hanno infettato l'Europa e dintorni, ma senza figli perderemo anche la nostra identità. Questo è Fatti più figli. E allora, fatti più figli, ma fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi, è il fenomeno raccontato da Susanna Tamaro, siamo sempre in un fronte moralista. Queste catombe forse nascono dal momento in cui l'obbligo di divertimento ha sostituito la gioia della festa, perché una volta i ragazzi nelle campagne, nelle fonderie, era tutta una festa, tutta una gioia, un divertimento, secondo la Tamaro, perché lei ha queste immagini da The Amicis. Comunque, i giovani che si drogano, che bevono fino al coma etilico, che praticano il sesso seriale, beh, questo non è male, che compiono atti di autolesionismo, e ci parlano di un tragico vuoto, di totale mancanza di senso e di direzione. E continuiamo a parlare di moralismo e passiamo al Vaticano, con lo scandalo del Palazzo del Vaticano nel cuore di Londra, comprato con i soldi delle offerte per i poveri. La guerra per accaparrarsi 650 milioni di euro, sotto accusa i cardinali Angelo Becciu e Edgar Peña. Per gestire il patrimonio milionario l'aiuto è arrivato da Credit Suisse. Abbiamo anche un'intervista a Monsignor Antonino Raspanti, sto leggendo dalla stampa pagina 13, vicepresidente Cei che dice: per la nostra chiesa è una ferita dolorosa, ma il patrimonio finanziario deve rendere, agire secondo etica cristiana, e si conclude con la speranza che la chiesa italiana si stia dotando di sistemi internazionali che escludano l'industria delle armi. Ma passiamo alla Repubblica con una notizia di cronaca italiana. Il creatore della chat pedofila e razzista è stato appunto intervistato, parla il sedicenne di Shoah Party, il gruppo su WhatsApp che inneggiava a Hitler e all'ISIS, che dice: era un gioco, mi è sfuggito di mano, a un certo punto ho provato ribrezzo, cancellavo i file ma non sono uscito, è stato un errore, ho detto entrate e fate battute, non ho messo nessun limite, pensavo che sui social e su internet ognuno fosse responsabile solo per sé. Questa chat nasce nel 2018 da una pagina Instagram di umorismo che si chiama appunto Shoah Party e contava 300 utenti che entravano e uscivano e 31 ragazzini che ne facevano parte in modo assiduo. Chiudiamo con la cronaca locale. Il Carlino, gioco d'azzardo, chiuse 20 sale slot. Anche qui c'è il moralismo: da una parte ci si indigna per la ludopatia, però poi ci si indigna se si alza qualche tassa sulla ludopatia, e nessuno dice niente sul fatto che gli introiti se li beccano dei giri strani alle isole Cayman e non lo Stato. Questo è il quadro. Comunque c'è la classica pagina del Carlino su Sinisa, quando si parla di Bologna, Romagna affida con Juventus, sorride di Bologna, e andiamo invece al Corriere della Sera che parla caso Pianoro, ora è scontro legale. Questa è l'apertura. La sindaca presenta un esposto contro la Borgonzoni per il trattamento illecito di dati personali. Dunque guerra legale tra Lega e Comune di Pianoro per il faldone di appunti dei psicologi sui bambini del paese trovati in un armadio, poi pubblicati sul web del Carroccio. La candidata del centrodestra regionale Lucia Borgonzoni, che ha parlato di bimbi schedati e pubblicato su Facebook strage degli appunti, ha depositato una denuncia all'ispettorato di polizia della Camera. Il Comune si è recato dai carabinieri per denunciare chi ha diffuso i documenti. La rabbia dei psicologi ci ha diffamato, il PD fuori bimbi dalla campagna elettorale. Questo si può dire a cominciare da Bibiano. Ma parlavo di PD, una festa dell'unità al sapore di tartufo. A novembre 4 giorni di kermesse all'Estragon per finanziare la campagna elettorale in vista regionale del 2020. E c'è un evento in città che viene definito sempre dal Carlino da cui sto leggendo, l'Antileopolda di Zingaretti. Dal 15 al 17 novembre tutta un'altra storia per rilanciare il partito. E chiudiamo con la Repubblica Bologna e con la campagna di boicottaggio alla Turchia, blitz dei centri sociali contro la Turkish Airlines. Ieri mattina tensione al Marconi, all'aeroporto, un'ora di ritardo sui decolli per Istanbul, polemica per la censura di Facebook dei siti antagonisti anti-Erdogan. La protesta accolta dagli applausi di alcuni passeggeri e dagli assistenti di volo. I collettivi dicono: la nostra campagna continuerà. E allora dalla Turchia e dal cui siamo partiti e qui torniamo in chiusura, perché parliamo invece ancora una volta della famosa tra virgolette modernità. Decine di pagine Facebook di testate indipendenti o associazioni che facevano informazioni sull'aggressione turca in Rojava vengono oscurate e censurate a causa di un'azione di massa filo Erdogan. Tra le vittime troviamo Rajta Donda d'Urto, Global Project, Info Out, Contropiano, TPO e Labà. Noi abbiamo raggiunto Andrea Cegna di Radio Onda d'Urto per riflettere su questa nuova forma di guerra che si sta combattendo sull'informazione. E con questo noi vi salutiamo, a risentirci domani sempre a stessa ora, ciao a tutti. Nella giornata di ieri abbiamo iniziato a ricevere delle notifiche da Facebook che alcuni nostri post violavano, diciamo, le conformità della regolamentazione del portale. I primi post che ci sono stati segnalati erano quelli di questi giorni in cui davamo aggiornamenti costanti sull'aggressione turca all'esperienza confederalista. I primi sono stati rimossi immediatamente e poi piano piano ci sono arrivate una serie di lunghe segnalazioni che arrivano addirittura a segnalare alcune immagini da noi messe sulla pagina Facebook della radio delle iniziative per Lorenzo Orso Orsetti. In specifico c'è stata segnalata una foto dove si vedeva la faccia di Orso, la faccia dell'altro compagno di Bergamo ucciso in Siria. Siria combattendo contro ISIS e lo striscione dell'iniziativa che si era svolta a fine marzo a Firenze in ricordo, dicendo che quell'immagine era stata segnalata perché violava le norme antiterrorismo. Difficile pensare che su un'operazione a così vasta scala, ovvero tantissimi post sulla nostra pagina segnalati e di tante altre realtà come Global Project, InfoOut, Milano in Movimento, Contropiano, singoli centri sociali eccetera, sia casuale. Probabilmente c'è proprio un lavoro su ampia scala di segnalazione costante che ha portato a che tante pagine siano oscurate. La nostra pagina da ieri sera, la pagina Facebook di Radio Onda d'Urto, non è più raggiungibile. Solitamente Facebook dà la possibilità, diciamo così, di obiettare a questa decisione e di poterla rivalutare. Voi vi state muovendo in questo senso? Sì, ci stiamo anche coordinando tra varie realtà per capire come fare la segnalazione d'errore, perché quello permette di fare Facebook, non essendo noi una pagina commerciale, non c'è la possibilità di parlare con delle persone, c'è la possibilità solamente di poter segnalare che è successa un'anomalia e quindi la pagina è stata sospesa, e ci stiamo coordinando ovviamente per muovere e non accettare passivamente questo che è sicuramente una delle tante forme delle guerre di oggi, anche quella di togliere gli spazi informativi a chi dà un'informazione magari diversa e di parte. Di fatto il meccanismo di Facebook non distingue tra quella che è l'informazione, la libertà di informazione, che è un diritto insomma universale anche riconosciuto, e invece come è successo in passato, pagine che incitano all'odio, al neofascismo eccetera eccetera. Quindi insomma bastano semplicemente delle segnalazioni per essere equiparate. In parte sì, dall'altra devo dire che in tante, tanti vi ricorderete quando furono chiuse le pagine di Casa Pound e di Forza Nuova, segnalarono come le modalità con cui erano state chiuse erano sospette, nel senso c'era il rischio, si aleggiava il fatto che in qualche maniera potesse essere quel dispositivo utilizzato in maniera simile ma diversa, no? Ed è quello che è proprio accaduto in questi giorni. Credo che la cosa su cui si basi tutto questo tipo di dispositivo è quello che il PKK sia un'organizzazione terroristica e quindi sta passando la linea turca, per cui anche ciò che accade nel nord della Siria è direttamente legato col PKK, e quindi chi parla e difende, sostiene quell'esperienza sta di fatto sostenendo un'esperienza terroristica. Poco importa se per esempio in tanti paesi il PKK è considerato un movimento di lotta armata, non un movimento terrorista, e quello che succede nel nord della Siria è stato inneggiato dal mondo come un'esperienza di libertà e di lotta contro i fascismi e l'oppressione dell'ISIS. Insomma, quando le questioni passano da un algoritmo che non ha una sensibilità, si scontra con questo rischio. Ovviamente non sto difendendo la pratica, sto solamente dicendo che un po' quello era uno spettro che aleggiava e che stiamo vedendo ancora oggi. Quando si sta su piattaforme proprietarie, i proprietari impongono dei regolamenti e insomma un po' tutta la violenza e perversione di quel sistema sta emergendo. Tra le altre, appunto, segnalo che il primissimo post, infatti, con cui siamo stati segnalati è stato un post molto vecchio in cui nel 2018 abbiamo fatto un servizio per raccontare appunto i 40 anni di storia del PKK. Era un servizio informativo, culturale, storico, di taglio storico, però è bastato quello per far partire la segnalazione e quindi collegare tutti gli altri passaggi.